Era stato convocato per Luigi Pardo, ma non si è presentato. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Ripeto, queste sono partite che servono anche per far crescere l'esperienza di tanti ragazzi che non ne hanno internazionale. Adesso dobbiamo continuare, a me dispiace perché io voglio vincere. Oggi comunque stiamo parlando di un pareggio. È stata una bellissima serata con il gol, però peccato per il risultato, però l'importante è che abbiamo fatto una buona gara tutti, una con grande intensità e è stata una bella partita. Io una cosa posso assicurare a tutti gli italiani, che noi saremo squadra, questo è un ottimo gruppo fatto di ragazzi per bene, che veramente amano questa maglia e hanno voglia di giocare per l'Italia. E di questo possiamo stare tranquilli e sereni. Saremo squadra e cercheremo di fare del nostro meglio sotto tutti i punti di vista. Ragazzi, so che le amichevoli della nazionale sono sexy come qualche signora in ciabatte e bigodini. Ieri non è andata malissimo, Ieri non è andata malissimo. No, non è andata malissimo, infatti ne vogliamo parlare insieme. Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronati in regia, Federico Mini in redazione. E invitiamo Giovanni, gli ascoltatori. Pardo arriva dopo, alle 3, con lui faremo l'audio forum. Arriva su, con calma. Con calma. Con l'ultimo treno faremo l'audio forum su risentendo le voci della settimana. 800 24 00 24, per gli ascoltatori che non sono alle prese con il carrello della spesa. La domanda è: Insigne deve essere titolare di questa nazionale dopo quello che abbiamo visto ieri? Eder va convocato oppure si sta giocando il posto per l'europeo, ad esempio? E da quando è andato all'Inter ha perso gran parte del suo smalto. Possiamo anche chiedere agli ascoltatori un voto ragionato sulla partita dell'Italia ieri sera con la Spagna. Per me è un bel 7 più, Anche 7 e mezzo, anche 7 e mezzo, è tutt'altro che... E non vale quelli che dicono che la Spagna era poca roba. No, perché la Spagna ci sono anche quelli, Sì. Non ci va benissimo con gli arbitri in Europa. Ecco, anche quello è un tema. Anche quello è un tema, anche se ti dico che chi manda gli arbitri insomma ritiene che possiamo stare tranquilli. È tutto frutto del caso. Comunque, in un'Italia da 7 più o 7 e mezzo, come dici tu, è risaltata l'imprescindibilità di Lorenzo Insigne. A proposito della, sai, la questione che si è riproposta sulla sua esclusione per punitiva che c'era stata, Insigne ha dato un paio di versioni, non una sola, ma due in due diverse interviste. La prima è questa. Io e il mister ci siamo chiariti, è stato un malinteso, però io, come ho detto già al mister, ci tengo tantissimo alla maglia azzurra, è un orgoglio per me giocare con questa maglia, io darò sempre il massimo e darò sempre tutto alla nazionale. Allora, questo è il primo Insigne, ce n'è anche un altro invece? No, non c'è mai stato un malinteso con il mister, c'è sempre stato un ottimo rapporto, lo ringrazio che mi ha richiamato, io mi metto sempre a disposizione del mister. Allora, c'è stato malinteso o non c'è stato malinteso? Serve l'interpretazione autentica, cioè quella del mister Conte. Ci siamo chiariti, io ho spiegato a Lorenzo alcune cose, perché era giusto, perché ribadisco sempre che i rapporti è meglio essere sempre molto diretti e molto chiari nel bene e nel male, perché poi oltre allo sport c'è la vita e quando ci si incontra con le persone bisogna sempre guardarsi in faccia. Assolutamente non c'era assolutamente nessun problema, però volevo che il ragazzo conoscesse un po' il mio pensiero per quello che era accaduto. Allora, chiarimento c'è stato, questa è l'interpretazione autentica di Conte, qualcuno racconta bugie, qualcun altro no, Capello racconta bugie. Non c'era molto da interpretare, Capello non dimmi, lo so. Dimmi questo, allora Capello, Tavecchio ha detto mi devo incontrare con Capello, ha detto incontrerò Capello, Capello tanti ha detto, altri, nessun, ma... nessun incontro Capello in agenda. Assolutamente. Ma non lo so, io però sollevo questo tema, che la verità è che oggi non ci sono candidati per la panchina della nazionale se non Di Biagio, Cannavaro, le seconde e le terze fila. No, appunto, gli altri tutti più o meno, chi più legittimamente, chi meno, si stanno sfilando. E allora la domanda che pongo io è questa: quando noi critichiamo Antonio Conte dicendo che manca di rispetto alla nazionale perché l'ha paragonata a un garage, anche se in realtà insomma la frase voleva dire altro, non siamo un po' ipocriti? Cioè, in fondo Antonio Conte 2 anni fa la nazionale se l'è presa in un momento difficile, oggi dopo l'europeo mi pare che non ci sia la fila. Sì, se l'è presa, ma senza tutto questo entusiasmo, cioè a me non ha mai dato l'impressione di essere presa, di tutta questa felicità. Però se l'è presa, gli altri oggi piano piano si stanno sfilando. Sai quella sensazione che ho io? Che insomma, allenatori come Capello, certamente Capello è un paperone del calcio con tutti i soldi che ha preso in carriera, però allenatori come Capello ad esempio non sarebbero così felici di andare ad allenare la nazionale, mettiamo, per 1,5 milioni, ma per questioni professionali. Io te la ribalto, e se invece non fossero così felici di andare ad allenare una nazionale che quasi certamente si giocherà in 180 minuti la qualificazione al mondiale del 2018, cioè attraverso il playoff, e se forse fosse quello il problema, perché non è che Capello esce da chissà quali esperienze vincenti. No. Con l'Inghilterra e la Russia, perché Capello dovrebbe dire no alla nazionale perché il budget non è all'altezza di un valore di mercato che forse non è più quello? Forse fa più paura l'idea che prendere oggi la nazionale significa rischiare un fallimento che sarebbe storico, perché l'Italia soltanto una volta non è andata alla fase finale del mondiale, e la verità è che noi da settembre subito le prime tre partite, Israele-Italia, Italia-Spagna e Macedonia-Italia, rischiamo di mettere in salita come un Everest. Però se hai paura di Israele e della Macedonia, Giovanni, non... Ma noi dobbiamo aver paura di quelle squadre. Non ti metti neanche a fare e questo. E poi c'è anche l'Albania, del nostro amico Albania, già un discorso diverso. Secondo Danilo, che scrive un SMS, a proposito, 349-238-6666 per i vostri pensieri, SMS, WhatsApp. Secondo Danilo, un allenatore che lascia fuori Insigne per un'ora va cacciato subito. Traffico. Tutti convocati. Convocati. Io sono uno di quelli che ha fatto tutte le convocazioni, e per me la prima convocazione che feci con Conte era una novità, e fin da subito si capiva quello che era il suo intento. Penso che in tutto questo tempo ho visto crescere la squadra, ho visto una squadra che gioca con dei concetti, con dei principi, ed è stato il credo del mister fin dal primo giorno che l'ho visto, farci diventare squadra. Penso che questo, se abbiamo questo spirito e questa squadra, poi abbiamo anche i giocatori di qualità che possono fare la giocata e poi toglierci le soddisfazioni. Questo era Parolo, giocatore che a me piace molto, così come mi piace moltissimo Candreva, i due laziali. Buongiorno Alessandro Alciato. Buongiorno a voi. Alessandro Alciato, che come sapete tra le sue sterminate opere letterarie ha scritto un libro con Conte, ma anche un libro con Mazzarri, no? Sì. Il meglio deve ancora venire. Il meglio deve ancora venire. E allora, il punto è questo: CT della nazionale. Qualcuno racconta una bugia tra Capello e Tavecchio. Deve incontrare Capello e Capello dice nessun incontro in programma. Poi ribadisce il suo no alla nazionale. C'è l'idea di un tecnico federale, potrebbe essere nessun altro. Con magari dietro un grande vecchio. Ma non so. Alessandro Alciato invece ha twittato una possibilità di Mazzarri. Proprio, potremmo passare da un libro all'altro, Alessandro? Sì, è una possibilità. Non ci sono stati contatti, ma sicuramente ci sarebbe un'apertura da parte di Mazzarri verso la nazionale. La verità in tutto ciò è che fino al 1° aprile, quindi fino al giorno successivo, 2 giorni successivi alla partita amichevole contro la Germania, in federazione si sono autoimposti di non sedersi a un tavolo per iniziare a parlare seriamente del nuovo commissario tecnico, perché davvero ovviamente qualcuno aveva pensato a Donadoni, ovviamente qualcuno aveva pensato a Capello, ovviamente qualcuno aveva pensato a Ranieri, ma preventivamente sono arrivati per motivi diversi tre no: Donadoni perché resterà al Bologna, Capello perché non ne vuol sapere, Ranieri perché vuole proseguire il suo sogno con il Leicester. Aggiungiamo anche Mancini, Alessandro. Io so, Mancini non chiuderei totalmente, però... non chiuderei totalmente e ti spiego perché. Perché in quella riunione, ti dicevo, del primo aprile, del 2 aprile, del 3 aprile, di inizio aprile, mettiamola così, verrà stilato l'identikit di quello che dovrà essere il commissario tecnico. Se l'identikit sarà una cosa del tipo, ok, puntiamo ancora su un allenatore decisamente importante, un allenatore con esperienza internazionale, un allenatore che però ci costi un bel po', allora a quel punto Mancini sarebbe il nome, sarebbe il nome relativo a quell'identikit. Invece l'identikit può essere l'uomo della cantera, come Tavecchi continua a ripetere, e allora lì sarebbero o Di Biagio, Cannavaro con Lippi, oppure un allenatore che abbia un po' il carattere alla Conte, che sia un fanatico del lavoro, e allora a quel punto sarebbe Mazzarri. Davvero non ci sono idee chiarissime, sì, in questo però momento. Alessandro, sei d'accordo che non stanno facendo un favore alla Federcalcio tutti a sfidarsi? Cioè, è vero che poi si fa in fretta, in tanti ieri ad esempio mi scrivevano dicendo Capello ha già detto che non sarebbe mai andato alla Juventus, ma questo e no un mese di Capello, dopo era allenatore della Juventus, sì. è vero, però oggi l'immagine che c'è intorno alla nazionale e intorno alla federazione, che ancora non si è seduta al tavolo per disegnare il profilo, e Alessandro ha perfettamente ragione, l'immagine però che c'è intorno alla nazionale è c'è la paura una barca di fallire su la qualificazione cui mondiale. Non tanti hanno voglia di salire, non tanti di quelli che magari la federazione metterebbe in cima a quella lista. Poi è evidente che ci sono quelli che avrebbero voglia. Il nome di Mazzarri ad esempio ci lavora da un po' d'amico, che è suo procuratore, su questa cosa, però io non so se sarebbe un profilo da fare entusiasmare la gente. Dopo Conte arriva Mazzarri è quello che due anni fa è da due anni fermo perché è stato licenziato dall'Inter. Esatto, le note cose. Sì, dopo Conte è difficile però trovare un profilo insomma che sia... Ma perché tutti questi no, Alessandro? Perché? Come diceva Capuano, perché tutti questi no? Ha ragione Capuano quando dice che i no sono stati tanti, però cioè, io non sono d'accordo quando si parla di una brutta figura fare la federazione. Non brutta figura della federazione, è una brutta aria. Allora da questo punto di vista sì, io li capisco gli allenatori, a domanda diretta allenaresti la nazionale? Dicono la verità, no, in questo momento non allenerei, è vero, c'è una brutta aria, ma ci sono dei motivi per cui c'è questa situazione. Intanto perché, come ripetiamo sempre tutti insieme, si qualificherà direttamente una sola squadra al mondiale per quanto riguarda ogni girone e le migliori seconde faranno i play-off. È vero, tutti dicono che la Spagna nel girone dell'Italia sarà favorita, magari qualche piccolo dubbio c'è dopo ieri sera se la partita di ieri vuol dire qualcosa, però sarà molto difficile, molto più difficile anzi rispetto al solito, qualificarsi. È vero che vieni dopo un allenatore come Conte ed è difficile arrivare dopo Conte, perché rischi di trovare dei giocatori che siano un po' non appagati, ma dico che siano un po' stati spremuti, lo dico nel senso positivo del termine. Lo stipendio, ecco, questo credo sia stato un grosso autogol della federazione, perché Tavecchio più di una volta ha ripetuto nelle interviste: il prossimo CT si scordi di guadagnare i soldi che guadagna. E tu sai benissimo, Ale, come sono i professionisti che misurano il loro valore. Cioè, uno come Capello di soldi non è che ne ha bisogno, ne ha guadagnati una vagonata. Però io credo che sia difficile per un allenatore di quel livello dire va bene, allenato Conte ne prendeva 4,5, devo venire io ad allenare per 1,5, e non è una questione di soldi, ma è una questione quasi di prestigio status, professionale, Mazzarri nel libro lo scrive esattamente così, dice i soldi alla fine, cioè siano 10 che siano 100, possono non cambiare le cose, la cambiano per essere rapportati a quelle che guadagnano gli altri colleghi. Cioè, certo. Se uno guadagna troppo meno rispetto agli altri colleghi, allora vuol dire che teoricamente è meno bravo. E c'è questa situazione, non lo pensa solo Mazzarri, ma lo pensa sostanzialmente tutti gli allenatori di un certo livello. Ci sono tante componenti che insomma portano a pensare che sarà una scelta difficile e tormentata, forse più tormentata. Posso buttare lì una provocazione che forse è una critica che si può fare alla federazione? Non è che il profilo giusto, il nome giusto e anche lo stipendio giusto Tavecchio se l'è fatto sfuggire un paio di mesi fa, magari perché non gli ha detto stai fermo, tanto con Conte abbiamo capito come va a finire, che è Zaccheroni. Poi Zaccheroni è andato a prendersi una panchina in Cina strapagato, però forse Zaccheroni era pronto, era già stato in lizza per la nazionale altre volte, era il profilo giusto. Adesso è difficile portarlo via dalla Cina dove guadagna tantissimo, però... No, era un profilo a cui si era pensato addirittura prima di Conte, vi ricordate? Certo, si facevano discorsi fotocopie. Anche nel 2006 era nella cinquina presentata Guido Rossi. Esattamente, era, è uno di cui si parla sempre, però voi ve lo immaginate passare da Conte a Zaccheroni? Io non discuto la bravura, ma proprio a livello di impatto, di verve... Sì, ti capisco, cioè, era come chiunque fosse arrivato... Dopo Marcello Lippi, beh, però il discorso vale anche per Mazzarri, Alessandro. Sì. Beh, Mazzarri, però, ha dei tratti di Conte caratteriali. Io più o meno li conosco abbastanza bene tutti e due. Il giorno in cui sono girati male, è meglio stare alla larga, sia da uno che dall'altro. Altri allenatori, qualcuno dice, anzi, mi hanno detto in questi giorni, un paio di persone, Mancelotti, perché è andato il Bayern? Non poteva aspettare la nazionale, è scappata una risata. Ma chiaro, perché quei top allenatori purtroppo oggi non allenano la nazionale. È capitato a Conte perché c'è stata una serie di cause che si sono incastrate pazzesche, le dimissioni daldella Juventus, gli sponsor che hanno contribuito a pagare lo stipendio, e col prossimo non succederà esattamente, così. Conte che è stato corteggiato, perché io me lo ricordo quel periodo in cui la federazione lo voleva, e Conte non come Capello ieri, ma molto peggio, ma per carità, ma stava non in barca e non rispondeva, stava in barca in Croazia e non prendeva il telefono. No, comunque la questione è oggettivamente complicata per tutte le ragioni che abbiamo visto. Invece, Alessandro, giusto una battuta sulla partita di ieri: si può fare a meno di Insigne titolare? E aggiungo Bernardeschi e Jorginho. È chiaro che Conte non si mette a fare gli esperimenti per il prossimo CT, chiunque esso sia. Mi sembrano buone idee per l'europeo. Mi sembrano ottime idee per l'europeo. Allora, partiamo da Insigne, perché questo Insigne qui può non andare in nazionale, no, può non giocare titolare in questa nazionale, no, perché più forte giocatore italiano, secondo me, è una meraviglia, è una meraviglia. E soprattutto la cosa che ha fatto ridere ieri è Insigne, questa situazione. Prima intervista dopo la partita dice in effetti c'è stato un chiarimento con il CT, adesso è tutto a posto. Seconda terza e quarta intervista, niente da chiarire. L'ha chiamato De Laurenti, si quinta intervista di Antonio Conte dice in effetti c'è stato un chiarimento, gli ho detto delle cose importanti. Che questo cosa vuol dire? Vuol dire che Insigne è entrato proprio nella parte completamente, e Conte, sapete, non è che vuole che i giocatori raccontino all'esterno quello che succede. Diciamo che fra un'intervista e l'altra Insigne è addirittura migliorato anche a livello di comunicazione nel corso della serata di ieri. In generale, detta questa cavolata mia, no, non si può fare a meno di Insigne. Quello che mi ha colpito ancora di più è Bernardeschi, perché ha avuto una personalità sì, ma magari averla nella Fiorentina, cioè nella tua squadra di club di cui conosci tutto, è un conto. Averla in nazionale con un allenatore come Conte, sapendo di essere sotto osservazione, perché se Insigne avesse sbagliato quello spezzone di partita ieri le cose si sarebbero fatte complicate per lui, è un'altra. Quindi cioè Insigne e Bernardeschi secondo me sono stati due super sorprese di ieri. Super, non dimentichiamo Zaza, però quindi se siamo arrivati con 16 nomi, 17 diciamo, sai, quelli certi sui taccuini che venivano pubblicati, dopo ieri sera siamo a 18-19 su 23. Sì, secondo me siamo anche qualcosa di più, cioè la nazionale è praticamente fatta. Sì, c'è qualche piccolo ballottaggio, ma mi sembra di capire che sia fatta. Bisognava capire non se Insigne fosse un giocatore da nazionale, perché Insigne certo era un giocatore da nazionale già prima, ma se le cose con Conte potessero andare a posto oppure no, e sono andate a posto. Quindi su di lui non c'erano dubbi tecnici, Conte aveva dei dubbi da altri punti di vista. Invece, a proposito di Bernardeschi, cioè, Conte non l'aveva mai visto nella sua squadra, ieri nei giorni precedenti in allenamento l'ha visto ed è stato non totalmente convinto, perché è chiaro che se oggi Bernardeschi arriva a Coverciano, inizia a tirarsela, come si suol dire, poi gioca male con la Germania, allora le cose per lui si complicano, ma mi sembra che Bernardeschi non sia un giocatore non mi sembra quel tipo. È anche una bella persona, anche una bella persona, una bella faccia di tolla, ma di quelle giuste. Grazie Ale, grazie Alessandro Acciato, grazie. Ci fermiamo per la borsa 800240024. C'è già Gennaro? No, non c'è la borsa, naturalmente. Che sto dicendo, Pasqua, dai, siete in giro tutti a spingere i carrelli della spesa. Però ci fermiamo lo stesso e torniamo subito. Tra poco seguiremo tutto, prima però spot per noi. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Dal 31 marzo Renzo Martinelli al cinema con il suo nuovo film, Ustica, una verità inconfessabile. Vedi quella sagoma scura laggiù? Quella è Ustica. Il 27 giugno 1980 il volo Itavia Bologna-Palermo precipita in mare al largo di Ustica. 81 vittime. Una tragedia, buonasera. Per più di 30 anni ipotesi e smentite sulla verità, tra indagini, reticenze e false testimonianze. Su Radio 24 il film diventa un radiodramma. Il dolore di una madre, l'indagine di una giornalista, la ricostruzione di una verità. Questa è la prova che c'è stata una collisione in volo. Ustica, una verità inconfessabile, di Renzo Martinelli. Lunedì 28 marzo alle 15 e alle 21.30 su Radio 24. Da giovedì 31 marzo al cinema. Info su radio24.it. Si ricomincia. Tutti convocati. La sua fede, il suo modo di intendere il calcio è sempre stato questo. Approdando in Spagna, in una terra dove la tecnica è alla base di tutto quello che rispecchia il calcio spagnolo, ha portato avanti un calcio totale, si usa dire questo termine, perché proprio non esistevano, tutti erano giocatori e tutti erano attaccanti e tutti erano difensori. Particolarmente eccezionale in una squadra eccezionale, perché la squadra dell'Ajax di Cruyff e dell'Olanda in parte, perché non è mai riuscita a vincere il mondiale come avrebbero tutti insieme sperato i giocatori di quell'epoca, però era un gruppo di giocatori che poteva fare a meno dell'allenatore. Io l'ho visto giocare più che marcarlo, era immarcabile. Mi ricordo benissimo quella partita perché, oltre ad essere una finale di Coppa dei Campioni, avevo anche l'onere e l'onore appunto di marcare uno dei più grandi giocatori, secondo me, di tutti i tempi. Sicuramente il più forte a livello europeo ed uno dei migliori a livello mondiale. Quindi ho avuto la fortuna di poter marcare Platini, Zico, Maradona, quindi grandissimi campioni, ma lui lo ritengo sicuramente il migliore. Il soggetto è ovviamente Johan Cruyff. Trapattoni, Rivero, Riali abbiamo sentito tra i tanti pareri, e ieri le abbiamo raccolto tanti subito, perché in tanti avevano voglia di parlare di questo di personaggio. Uno dei più grandi di sempre. Intanto questa sera 19:45 c'è l'amichevole, sì, ad Amsterdam tra Olanda e Francia. Dopo, sì, 14 minuti le squadre si fermeranno per fare lì il loro minuto di raccoglimento. Grandi. Ho visto anche splendide prime pagine sui giornali europei. C'è chi ha sbagliato, Il Guardian ha messo Rensenbrink. Ragazzi, controllate, però quasi ovunque splendide prime pagine. Io mi viene da dire, per fortuna da noi c'è lo sciopero dei poligrafici. Sì, posso qualcuno dirlo. È uscito. Qualcuno è uscito e ho letto anche, cos'è, Juventus? Gioco d'azzardo. Questo, sì, era il titolo, sì, con cui apriva tutto Sport. Vabbè. Gennaro, buongiorno. Salve, buongiorno. Dica. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Allora, due osservazioni, anche poi lanciamo il toto allenatore dopo. Ieri finalmente parliamo un po' di calcio, abbiamo visto un secondo tempo alla grande. Cioè, secondo me l'Italia non può prescindere dalla linea verde. Ho visto cinque giocatori sopra le righe, diciamo, la linea verde, l'insigne. Bernardeschi, che ha una classe pura e l'ha dimostrato anche in nazionale, ha molta personalità. Mm-hmm. Giaccherini si è mosso benissimo. Verdissimo, no, però Giaccherini, ma va bene lo stesso. Sì. E poi abbiamo il difensore della Roma che mi piace tanto. Quindi io, da tifoso del Napoli, ho notato una cosa ieri. Quando è uscito Morenzi, Insigne è andato vicino a lui, gli ha stretto la mano, lui subito. Però questo deve far capire che l'essenza del calcio, della vita, è questo, è uno sport. Quindi basta con queste differenze, Roma, Napoli. È questo lo sport, questo ci deve far ravvicinare. Quindi sì, la nazionale non può prescindere da questi 5-6 giocatori giovani, dinamici, intelligenti. Insigne addirittura che gioca ancora meglio, perché io ho fatto caso a una cosa, ieri ho visto Insigne anche dalla posizione in cui ha segnato, da centravanti pure, mentre nel Napoli lui gioca per Ocaiono, per Higuaín, si è notato questo. Beh, mentre... ce n'è uno che qualche gol fa nel Napoli davanti. Qualcuno lo fa, che ieri in Argentina è partito dalla panchina, poi ne parliamo. Higuaín. No, però secondo me la notizia di ieri non è che sono imprescindibili quei nomi lì, è forse imprescindibile che salgano sull'aereo per la Francia. La notizia è che ieri ne mancavano tanti di titolari a Conte, e abbiamo sempre avuto il dubbio che già non fossimo super competitivi nei primi 11 e a maggior ragione nelle riserve ci fosse qualche problema. Invece la risposta è che invece le alternative ci sono. Sì, questa è una delle risposte, credo, che Conte abbia trovato dall'amichevole di ieri. Mi sfugge il difensore della Roma che faceva riferimento al nostro amico, forse Astori gioca da un'altra parte. Sì, Astori gioca da un'altra parte, però va bene lo stesso. Però non è uno di quelli che farà il titolare in Francia. No, di sicuro. Filippo Maria Ricci, buongiorno. Buon pomeriggio. Ciao, siamo partiti da Cruyff, nel ricordare Cruyff. Giustamente, sì, no? Mi sembra giusto. Mi sembra perfetto, un morto, un re del calcio che a Barcellona è diventato imperatore di Catalogna. Quanto si sentiva ancora la presenza di Cruyff lì? Molto, chiaro, diciamo, si è sentita in maniera clamorosa, perché diciamo che c'è la terza tappa, no, di Cruyff, prima il giocatore, l'allenatore e poi il consigliere di Laporta, perché è Cruyff che dice alla porta: prendi Guardiola. O se non glielo dice lui, quando la porta, diciamo, va da Cruyff e gli dice: senti, ma tu che ne pensi? Cruyff dà il via libera. E al tempo Cruyff faceva il columnist per il periodico, no? Uno dei due giornali politici di Barcellona, però ovviamente aveva ancora un grandissimo potere, perché la porta gli dà quel potere, è intelligente in maniera sufficiente per dire: va bene, io magari non ci capisco tanto, mi affido, sceglie, no, Beghiristain, Soriano, che adesso sono al City, sceglie diciamo dietro le quinte Cruyff, e poi sceglie Guardiola, e lì c'è l'ultima grande mossa di Cruyff col Barcellona. Sì. Però io, diciamo, a me piace ricordare anche il Cruyff che arriva a Barcellona, no? Ieri su Twitter, no, girava molto, no, questa statistica tra i titoli vinti prima e dopo Cruyff, no? Che è impressionante, perché no, sono 72 anni contro 27 e sono più titoli nella seconda parte dell'esistenza del Barça. Però non è solo questo, e anche lui, ogni tanto gli rimproveravano, no, di non parlare catalano, per esempio, però lui ha chiamato il figlio Jordi quando era proibito chiamare il figlio Jordi, perché è un nome catalano e c'era Franco. E Cruyff bastava proibire qualcosa e lui istantaneamente, antagonista totale. E legge totale. Legge la lettera dei prigionieri politici, no, catalani, è un personaggio, è chiaro, lui, diciamo, l'importante era far polemica, se vogliamo, no? Quindi poteva trovare varie angolazioni, fosse una guerra per uno sponsor, no? Piuttosto che per la nazionale, un allenatore, un presidente o la politica, lui c'era. Sì, questo è stata la sua prima grande linea, ma era così giocando... anche in campo, cioè quello spirito era Johan Cruyff, ed era così anche in campo. A proposito, abbiamo la dichiarazione di Cruyff su Guardiola, la sentiamo? Guardiola è sufficiente intelligente e además ha jugado medio campo. Medio campo quiere decir que te puede atacar por todos los sitios y tienes que distribuir el juego por todos los sitios. Entonces, solo, como digo siempre, el fútbol se hace con la cabeza y solo se usan los pies. Quiere decir que aquí manda la cabeza en muchos sentidos. Por lo tanto, a mí no me sorprende que el Guardiola es un gran entrenador. Così, Cruyff su Guardiola. Adesso sì. Una meraviglia, dai. Una meraviglia. Bellissimo. Adesso si parla dell'intitolazione di uno stadio che potrebbe essere il Camp Nou oppure l'Amsterdam Arena. Io voterei per quanto possa. No, scegliamone uno. Io sarei per l'Amsterdam Arena perché è la culla in cui Cruyff è nato. Giovanni? Ma sì, anch'io. A Barcellona possono andare avanti con col vecchio Camp Nou come nome, forse sarebbe più giusto celebrarlo a casa sua. Esatto. Tu Phil, sì, come la pensi? No, io sono d'accordo con voi, perché comunque è chiaro, diciamo, l'impronta di Guardiola, di Cruyff sul Barcellona è enorme, però non è stato solo, non so come dire, secondo me, ovviamente è molto più evidente il cambio che lui dà all'Ajax, che vince 3 Coppe dei Campioni, cioè è una cosa, non mi viene da ridere. Beh, insomma, no? gli regala la bacheca. Sì, esatto, sì, e poi l'Olanda, perché io, allora, noi, no, in Spagna ho la fortuna di partecipare a questa trasmissione, si chiama Fiebre Maldini, che fanno vedere, no, vecchi filmati. E in questi ultimi giorni, gli ultimi mesi, noi abbiamo passato, cioè io consiglio alla gente, se ha un po' di tempo, di andarsi a vedere i filmati di Olanda-Uruguay, Olanda-Argentina e Olanda-Brasile del Mondiale del 74, no? Sì. La gente non si ricorda che l'Olanda aveva partecipato a 2 partite del Mondiale, una nel 34 e una nel 38. Mm-hmm. E dopo basta. Mm-hmm. Si presentano contro l'Uruguay e noi abbiamo, c'era questo servizio con Pablo Forlán, il padre di Diego Forlán, sì, che era un grande difensore dell'Uruguay. E lui dice, è incredibile, dice, per noi c'è stato un prima e un dopo in quella partita, ci hanno distrutto. Cioè, noi non li sì, è chiaro, c'era l'Ajax, va bene, giocano bene, però noi eravamo Uruguay, avevano vinto il mondiale, erano arrivati quarti, mi sembra, non in Brasile, comunque una squadra dura, di picchiatori, non riuscivamo neanche a picchiarli. Lui dice, questa è la cosa, non sapevi dove andarli a prendere, certo. Esatto, dice, il 15 giugno del 74, cioè l'Olanda era la terza partita in un mondiale, e gli fanno, dice, poi la cosa bellissima, perché Forlán dice, clamoroso, pensa il calcio che brutto, dice, oh che bello, diceva lui, dice, noi il secondo gol ce lo fanno al 90esimo, abbiamo anche avuto una mezza occasione per pareggiare, dice, ma ci avevano camminato sopra, ci avevano distrutto, dice, eppure poi eravamo rimasti in partita in qualche modo, però dice, io non avevo mai visto niente del genere, ed era un difensore di grande livello e... Che dispiace, no, che quell'Olanda non sia riuscita ad indossare la corona di campione del mondo. Io l'ho definita la mia prima grande delusione, no, la prima grande delusione della molti, mia vita. Sì, di molti, Filippo. Un attimo di pazienza, traffico, stai lì, che facciamo anche due chiacchiere sulla Spagna. Tutti convocati. Convocati. No, ascoltatore che mi scrive un WhatsApp, non ho detto stai lì figa, ho detto stai lì Phil, intendendo Filippo Maria Ricci, che ho collegato, che è collegato con noi, e Giovanni Capuano invece, che no, con me alla barba e a Trento, ma non ho detto così. Intanto riconvoco gli ascoltatori, 800 24 00 24, è il numero verde, mollate sto carrello della spesa, le uova ci pensate dopo, chiamateci, fateci compagnia. Filippo Phil, e non figa, Phil Filippo Maria Ricci, sì, per la Gazzetta dello Sport, e anche per noi, giusto per completare il quadro. Allora, non grandissima impressione la Spagna del Bosque. No. Forse no, la ricostruzione post-mondiale non è così semplice. Non va così bene, no. E alla fine, oggi i giornali spagnoli parlano di De Gea e di Aduri, che ha 35 anni, quindi, no? Sì. Il portiere ci sta, va bene, hanno trovato un altro bel portiere, e comunque poi bisogna vedere come va a finire, perché il Bosque è molto affezionato a Casillas, vedremo, e Aduriz sicuramente più utile di Diego Costa, questo senz'altro, però parecchi problemi, e non gli manca il, forse cos'è, il 3.0 a Spagna, no? Aragonés 1.0, del Bosque 2.0, arrivano fino, no, all'Europeo 2012, e adesso gli manca la nuova, diciamo, l'aggiornamento dell'applicazione. Sì. E li vedo in difficoltà, è chiaro, il talento non manca, e i giocatori teoricamente sulla carta, se leggi i nomi, no? No, sulla carta se leggi i nomi, ma c'erano anche i mondiali, voglio dire, non è che fosse una squadra di... Non so se Del Bosque è stanco, oppure se il rapporto ma non è mica facile comunque ricostruire dopo che hai vinto tutto e dopo un mondiale dell'Udente, non è che c'è Harry Potter, come dice Mihajlovic, c'è la bacchetta magica, però non era uscita male la Spagna da queste qualificazioni europee, no. Esatto, però, sai, però qualificazioni se tu guardi certo i risultati, ti dava e ti dà l'impressione di aver cominciato quel nuovo ciclo, perché evidentemente col mondiale c'è stato uno strappo, c'è stato qualcosa che si è rotto. Però ieri sera, per esempio, l'Under 21 ha perso male, no? Anche sì. 3-0. Sì, questo, sì. Guarda che quella è una bella Under 21. È strano per la Spagna, no? Non sono abituati. Allora, Io dico, quando l'ho intervistato, no, qualche giorno fa, Del Bosque, e lui, no, parlando del Barcellona, no, esaltava quello che effettivamente è il miglior pregio per me di questo, no, del Barcellona, questa capacità di riciclarsi nella competitività. Cioè ogni domenica questi vanno in campo per vincere. Cioè sì, che uno dice, vabbè, magari ti sei anche, no, un po' rotto le scatole, giochi col Getafe, no, magari l'Almeria o il Granada, dice, vabbè, no? E invece questi ogni partita non mollano. Forse alla Spagna manca questo. Possiamo manca avere anche un'altra cosa. Noi sì, ci facciamo mille problemi, giustamente, perché da noi non giocano gli italiani. Se tu prendi il Barcellona, i tre davanti non sono spagnoli. Il Real, certo, Madrid uguale. Costa ha preso e gioca le grandi squadre. Ha preso e gioca con la Spagna, così, ma sarebbe un brasiliano, e comunque è un giocatore che attraversa un momento di crisi. Qualche problema ce l'hanno anche loro. Prima c'era Xavi, adesso c'è Rakitic. Nel Barcellona, tanto per, no, fare un esempio, ma tutte le grandi squadre, guarda, l'anno scorso sono andato a prendere per curiosità le formazioni titolari delle quattro semifinaliste di Champions League, ebbene eravamo lì nella mescola tra indigeni e stranieri, sì. Cioè Real Madrid a centrocampo, Kroos, Modric, Casemiro, sì, oppure James, se vogliamo, non lo so chi vogliamo mettere, sì, cioè Isco viene dietro e comunque allora è chiaro che ci sono delle difficoltà, però è anche vero una cosa, però, che gli spagnoli vanno all'estero, per cui in Inghilterra ci sono spagnoli, no, titolari in grandi squadre, quindi questo quello che magari un po' manca all'Italia, no, i nostri giocatori all'estero, sì, a parte Verratti, ecco, adesso Motta, così, però sono pochi, no, i giocatori titolari, soprattutto poi in grandi club. Sì, guarda a caso sono titolari nazionale, Verratti, Motta, Pellè, Darmian. Darmian. Esatto, no, è questo che la Spagna ne ha tantissimi, perché ha cominciato a esportare prima di noi, no? Per cui però molti, non so, stanno al Chelsea che va male, o Mata è al United che va male, insomma, questo anche magari incide anche sul morale, no? Casorla si è fortunato comunque all'Arsenal, un'altra stagione pessima. No, questo un po' secondo me condiziona, però io dico è una questione, secondo me, molto di mentalità, perché certo, è chiaro, hai vinto, no, europeo, mondiale, europeo. Sì, scoppola al mondiale, magari adesso dentro di te pensi di non riuscire, no, a dare la vuelta alla tortiglia, come dicono qua, no, a rigirare la frittata. Non lo so, io la come vedo scrive, perché... come scrive l'ascoltatore, che è Daniele, mancano Xavi e Iniesta, forse sì, insomma. No, Iniesta c'è, però Iniesta c'è, non c'era ieri, chiaro, e sta facendo anche una buona stagione, però lo stanno centellinando. Chiaro. E Xavi non c'è più, è chiaro. Voglio dire, uno con Xavi. Anche li sostituisci dall'oggi al domani, caro Filippo. No. Grazie, no, Filippo. A voi, ragazzi. Grazie, Filippo. Ciao, Maria Ricci. Filippo Maria Ricci, ripeto. Ascoltatori, Claudio. Claudio da Prato. Buongiorno. Buongiorno. Prato, Esatto, esatto. Sia chiaro. Quello era l'Uevo Revuelto, perché ero a Madrid fino a ieri. Ah. No, il coso della... Comunque. Ah, quindi correggi Filippo. No, è che l'Uevo Revuelto. Si chiede la mattina a desagiuno, quando si fa colazione. Comunque, il mio intervento voleva essere sempre su Cruyff, e avevo bisogno, no, di chiudermi. Mi manca un piccolo tratto per chiudere il cerchio, perché io nel 78... ero un ragazzino di circa 10 anni. Cosa accade esattamente con l'Olanda, Cruyff, chiaramente, verso il regime? Ci fu qualcosa di dimostrativo? E guarda la storia quanto è strana. Oggi Obama va in Argentina proprio mentre muore Cruyff, vabbè, una coincidenza, dà il libero accesso, no, a tutti quei documenti che furono fino a oggi. Ecco, è un chiarimento che mi intendeva, perché mi è sempre rimasto un po' nebuloso, insomma, questo tratto del 78. È stato nebuloso, Cruyff praticamente rifiutò di andare in Argentina, chiuse lì la sua parentesi con l'Olanda. E chiaramente era un'altra Olanda, anche se c'erano i vari Neskens, i Van de Kerkhoff, i gemelli Van de Kerkhoff, c'era Rensenbrink, che era un enorme giocatore, insomma l'ossatura era quella del 74, però mancava la superstar Johan Cruyff. Franco, non vada via, Franco da Catania, 800240024, noi sentiamo il GR ma torniamo. Finisce qua, senza recupero il primo tempo, gran spettacolo. Tutti convocati. Tutti i sabati con voi in diretta qui su Radio 24, la compagnia dei conti della Belva, cioè Oscar Giannino, Carlo Alberto Carnevale Maffei, Mario Seminerio e Renato Cifarelli, tutti i sabati dalle 10 alle 12, perché i conti della Belva lo sapete, ma comunque ricapitoliamolo, perché si tratta di spiegare a voi, noi, ma soprattutto di dirci voi in diretta chiamando, ma è vero o meno che la ripresa italiana è così forte come dicono? È vero o meno che lo Stato non è vero che spreca tanti i suoi soldi? È vero che paga i suoi debiti? È vero che non è vero che paghiamo troppe tasse? Insomma, un inizio di fine settimana dalle 10 alle 12 in diretta con un po' di sana indignazione. I conti della Belva, mi raccomando, ascoltateci. Il segnale orario vi è offerto da Index, protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. Tutti convocati. E con me Giovanni Capuano, è arrivato Pierluigi Pardo, ciao Pierluigi. Eccolo. L'abbiamo aspettato per l'audio forum che tra poco faremo. Sì. Tanto c'è Franco da Catania che aspetta la prima del GR, lo sentiamo subito. Buongiorno. Sì, buongiorno, salve. Dica. Allora, la domanda era, scusa per le scale. C'è problema, riprenda con calma. A Conte e alla Nazionale. Sì. La domanda è, parlo da tifoso juventino tradito da Conte. Che secondo me Conte, quando è andato in Nazionale, è stato semplicemente un ripiego, perché nessuna panchina prestigiosa come sperava lui l'ha cercato. Quindi... non è così, però. No, non credo sia così. Non credo sia così. Non è così. Cioè, è ingeneroso dire questo di Conte, anche perché Conte aveva scelto di stare fermo e aspettarne un'altra panchina. Sì, parlava di Parigi, insomma, aveva quest'idea. E poi Tavecchio l'ha convinto, poi ha messo in campo anche l'accordo con la Puma, quindi soldi e quindi tutto il resto, ma il paradosso è questo, in Italia sono in tanti a pensarla come l'amico e avercela comunque sempre su con Conte, adesso poi che ha detto che dopo l'europeo andrà via, in un momento in cui alla fine Conte quella nazionale scomoda se l'è presa. Sì. Oggi una nazionale che sarà altrettanto scomoda come panchina, e facciamo prima il discorso con Alessandro Alciato, non la vuole nessuno. Comunque diciamo che è solo parzialmente vero, nel senso che sicuramente quando Conte rompe con la Juve è luglio, finito il mondiale, è un momento in cui i club, diciamo, che avevano già scelto le loro panchine, addirittura rompe dopo il raduno, quindi sicuramente era una situazione di impasse, però è anche vero che tutto era meno che Diego, anzi era di tutti i nomi più prestigiosi della nazionale quello più no, ma c'era stato una sorta di plebiscito, ti ricordi, in quei giorni, insomma, sul nome di Conte si era grosso modo tutti, appunto, sul nome di Conte si era grosso modo tutti d'accordo, non è che ci fossero grandi discussioni, piuttosto ha vissuto con mal sopportazione questo suo ruolo, come lui ha detto, ma tra poco torniamo a parlarne. Alfonso, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io volevo chiamare appunto per parlare un attimino di Jean Cruyff. Io ho vissuto l'età che lui giocava a pallone, giocava anche a pallone, e giocava con il numero 14 perché era il suo numero di maglia, iniziava a giocare a 14. Poi mi sono girato sulla pallavolo e ho continuato a mantenere il numero 14 perché era proprio affezionato a quel numero. E venendo adesso alle partite di calcio del campionato, che tante volte succede che queste squadre giocano, si mettono d'accordo, non magari così chiaramente, ma per uno 0-0 scialbo, proporrei, non ce l'hai così, una provocazione, ma perché chi fa 0-0 senza giocare non si dà nessun punto a nessuna delle due squadre? Sì, questo ma non è sono un anticalcio. Ma Alfonso, non sono d'accordo, anche questa non è nuova, è già rimbalzata, ma non sono d'accordo, perché lo 0-0 è un risultato di pareggio, poi non è necessario che ci sia un accordo esplicito o sottinteso, fa parte del calcio 0-0. Pardon. Senza scomodare Brera, che diceva che lo 0-0 era la partita perfetta. Sì. E probabilmente in assoluto è sbagliato, quasi sempre lo 0-0 è una partita noiosa, quasi sempre, però è una partita noiosa, qualche volta invece è una partita realmente perfetta, una partita tattica nella quale le due squadre... siccome c'è una fase difensiva che è molto importante, nel caso è importante come la fase offensiva, lo 0-0 può essere anche una partita molto ben giocata. Sì, questo sì, e poi comunque è un risultato che fa parte del calcio, un pareggio, quindi un punto a testa, mi sembra sufficiente un punto a testa con, che penalizza da quando ci sono i tre punti. Ma stiamo dicendo delle banalità, invece io voglio aprire l'audio forum e farvi sentire un po' di voci che poi commenteremo sui fatti della settimana, a partire dalla lotta a scudetto. Dybala, controllo e tiro violento, rete, rete, che gol, capolavoro di Dybala, 2-0 Juve, un gol gioiello. Astronavi in fiamme al largo dei bastioni di Orione. Palla per Higuain, palla persa da Ilicic, Higuain, 2-1, è il Pipita, è sempre il Pipita. E non hai visto ancora niente, e non hai visto Quadrado, quindi Dybala, Dybala, Dybala, Dybala, fino in fondo Dybala, 3-1 Juve, ecco il punto esclamativo. Hamsik, 1 contro 1, in cross in mezzo, Higuain, Higuain, Higuain, il Pipita. Il neon dell'insegna di un motel, con una lettera spenta. Non se ne va, Morata al limite, Morata allarga per Dybala, per chiuderla Dybala, 2-0 Juve, la firma di Dybala. Hamsik dentro, Higuain nel suo aggancio, libera il destro, straordinario, straordinario Higuain. Questa roba ovviamente di domenica scorsa, Higuain, Dybala, poi Messi, Agüero, poi parliamo anche di questo, l'Argentina là davanti è mostruosa, al di là del fatto che non mi sono piaciute le parole di Sarri sul non mi piace il nazionale, la sosta per il nazionale, i giocatori vanno di qua e di là, questo ovviamente non vale solo per il Napoli ma vale per tutte le grandi squadre europee, al di là di questo, secondo voi ragazzi, a chi può fare dar più fastidio questa pausa, al Napoli o alla Juventus? Io credo al Napoli. Perché? Credo al Napoli perché la Juventus complice anche le squalifiche. È vero che Juve-Empoli è una partita facile sulla carta, però è anche vero che se fosse arrivata senza soluzione di continuità, dopo un periodo particolarmente stressante per la Juventus, con qualche difficoltà fisica e con in più le squalifiche, perché mancheranno Bonucci, Alessandro, Khedira, insomma Allegri deve reinventarsi un po' tutto, mettendo insieme tutte queste cose qui, secondo me per Allegri sarebbe stato più complicato gestirla. Invece in mezzo alla pausa è vero che vanno via quasi tutti, in giro. Credo la Juve ne abbia persi 13, sì. In Italia è la Roma che ne ha persi di più e ne manda via 14 per le nazionali, però è anche vero che puoi tirare il fiato, riordinare le idee e studiare un attimo il piano per le ultime per le ultime giornate. Sei d'accordo Pierluigi? Ma direi di sì, cioè sì. La Juve risolve un problema, il Napoli non ha questo problema, quindi da questo punto di vista sicuramente la settimana di pausa può essere utile, perché se alle squalifiche della Juve sommiamo gli infortuni, se si fosse sceso in campo domani, dopodomani, secondo me la Juve arriva a fanno. È anche vero che la partita con l'Empoli è una partita secondo me mediamente difficile, per usare un eufemismo, cioè una partita dove comunque la Juve non mi sembra un test per il momento dell'Empoli, più che altro non mi sembra un test così complicato, quindi sì, poi alla fine non vedo i problemi possono essere solo rinviati di una settimana, perché le squalifiche restano quelle, però togli sette giorni di infortunio, insomma. Sì, esatto, per esempio Dybala che sappiamo ha marcato visita, va tornato indietro, insomma è chiaro che un conto è questa settimana, un conto è la prossima. Sì, anche se resti in dubbio dalle ultime notizie, sì, non è a posto, certo. Non è ancora a posto, però certamente ha certamente se c'è il dubbio tra sette giorni non sarebbe stato proprio mai presente domani o dopodomani, quindi poi banalmente fra 14 giorni si gioca Milan-Juve. Se tu avessi giocato questo weekend Juve-Empoli, il dubbio di Dybala e di tanti altri magari sarebbe stato sulla partita di San Siro, che è un po' più delicata. La Juve gli hanno regalato un jolly da spendere, jolly nazionali. Allora, altro tema, ovviamente questa è stata la settimana del terrore, della paura. Risentiamo Abete, vicepresidente dell'UEFA, che è intervenuta ai nostri microfoni in una intervista che è rimbalzata su tutti i giornali d'Europa, del mondo. Il rischio porte chiuse esiste all'europeo? Ma il rischio da un punto di vista tecnico può esistere sempre. Perché? Perché parliamo di una competizione diciamo, in cui l'evento deve avvenire, nel senso che se parlassimo di partite tra virgolette rinviabili o di eventi, ecco, una amichevole eccetera eccetera, o una partita ufficiale che può essere rinviata ad altra data, evidentemente questa fattispecie è una fattispecie che non si presenterebbe. Nel momento in cui lei ha un torneo, ovviamente il torneo sconta il fatto che determinate date sono ognuna funzionale al risultato finale del torneo, altrimenti il torneo non può andare avanti. Poi l'UEFA ha detto: l'europeo si gioca, non ci sono discussioni, non ci saranno porte chiuse. Questa è la posizione ufficiale dell'UEFA, e ieri ne ha parlato Buffon. Oggi l'UEFA ha detto non ci saranno partite a porte chiuse, però c'è grande preoccupazione. Beh, certo, penso che sia più che normale, ed è un segnale che mi fa anche piacere, nel senso che è un modo per non abituarsi, no? A un qualcosa di disumano. Qualcosa di disumano, siamo tutti con Buffon, no, Pardo? Sì, sì, no, è perfetto. Gigi dice una cosa giustissima. È chiaro però che con tutto l'affetto e il rispetto per questa presa di posizione dell'UEFA, è altrettanto vero che se dovessero esserci problemi, è chiaro che la partita si gioca a porte chiuse. Cioè, l'UEFA oggi dice una cosa che è un auspicio, una presa di posizione, poi vediamo. Siamo tutti d'accordo. È evidente, Dara, arrivo a dirti che se non ci fossero le condizioni minime di sicurezza, potrebbero anche spostare l'europeo a tempi migliori. Ma è una provocazione, è chiaro che sarebbe una sconfitta per tutti noi, no? Perché sarebbe riconoscere una sorta di stato di guerra che non è accettabile. Però allo stesso modo penso che se non ci fossero le condizioni, tanto per essere chiari, se ci fosse un allarme a due ore dall'inizio della partita, a tre ore dall'inizio della partita, è chiaro che la gente allo stadio non si entra e magari nella partita neanche si gioca. Quindi purtroppo siamo di fronte a una situazione per certi versi ancora peggiore di una situazione di guerra, perché la situazione di guerra in qualche modo la conosci. Certo, esiste una dichiarazione, esistono degli obiettivi, sai chi è il nemico. In una situazione di guerra sai pure che con chi devi trattare eventualmente, sai che è una cosa qui di un po' meno, tutto un po' meno chiaro, no? Senza dichiarazione, senza nemico, sì. Quello che deve essere chiaro è che non decide l'UEFA, non deciderà l'UEFA, non deciderà, decideranno le autorità. Esattamente, sì, come esattamente come già succede. L'ultimo esempio è quello che abbiamo avuto per i cori razzisti contro Koulibaly in Lazio-Napoli, dove l'arbitro scrive: a un certo punto i cori proseguono, il funzionario della Digos viene e mi dice che la partita finirà a prescindere da quello che accade dentro lo stadio, punto. E stiamo parlando di una cosa piccola, brutta ma piccola. E alla fine ubi maior minor cessat, no? Nel senso che sto in radio, tutti convocati, anzi metti tutti convocati subito. Ma com'è il canale? Radio 24. Con chi stai parlando? Ma con uno che si è fermato per fare una foto. Allora facciamo la foto, però Radio 24, c'è l'audio forum, sono Capuano e Genta, ma Robe da matti. La macchina nuova, adesso la colpa è della macchina, guarda, è incredibile. Voglio dare la colpa a questa macchina, ecco, una foto veramente irreale. No, stavo dicendo, tornando a cose un po' più serie, che alla fine è normale, è ovvio, è logico che sia così. Cioè, alla fine decidono le polizie, decide l'intelligence. Beh, ma questo, su questo dubbi non ce ne sono, anche Abete l'ha detto chiaramente, sono cose che passano, come ovvio, sopra la testa dell'UEFA, e quindi saranno le autorità preposte a... E quindi l'UEFA oggi dice una cosa che è un auspicio. Se vuoi anche un manifesto programmatico filosofico, cioè che a me piace molto, che a me piace molto. Ma l'europeo senza pubblico, che roba è? Una roba burocratica. Allora andiamo sull'isola della Maddalena, o scegliete voi un'isola del Mediterraneo e giochiamo tutte le partite sulla spiaggia, come nel film di come certi vertici di sicurezza fra i capi delle superpotenze mondiali, che vengono fatti in dei luoghi inaccessibili. Certo. Allora, ecco, qui è ovvio che invece siamo di fronte a qualcosa di diverso. Qui ci deve essere la gente che si incontra, che beve le birre, che socializza, che va al fan fest, è questa roba qui. È chiaro che poi qualcuno scrive: il vero problema è fuori dallo stadio, il vero problema è tutto quanto fuori dallo stadio, dentro lo stadio. Il problema è generale, però piace almeno oggi, in una settimana così difficile, pensare che si vada all'europeo a testa alta e provando a giocare nei modi e nei tempi stabiliti. Altra frase, altra battuta che ha fatto molto discutere in settimana, così torniamo sull'argomento, quella di Conte, parcheggiato. Stare 4 mesi senza fare niente, pensare che ce ne siano altri 2 anni così, sinceramente ho avvertito una difficoltà, ecco, da questo punto di vista. Farei molta fatica, ecco, a stare in garage, ecco. Quando una macchina è in garage è lontana dal prato, no? Quindi tu entri nel garage, senti il profumo delle gomme, senti il profumo dell'olio della macchina, senti il profumo della macchina, ma non senti il profumo dell'erba. Questo è fuori dubbio. Tavecchio ha detto: non devo rispondere a nessuno, né a Conte né a chi mi consiglia questo o quell'altro CT. Pierluigi, prima io e Capuano abbiamo affrontato con Alessandro Alciato questo discorso. Sembra che ci sia un generale fuggi degli allenatori, dei vari candidati dalla panchina della nazionale, e abbiamo ipotizzato che Giovanni dice è un rischio prendere la nazionale italiana alla vigilia di una qualificazione europea mondiale che non sarà semplicissimo con la Spagna nel girone. Potrebbe essere, dicevamo, anche una questione di soldi, che come sappiamo per i professionisti sono un affare di status, no? Accade in America, ma accade anche in Italia, quindi dice: perché Conte 4 e mezzo, io devo andare lì magari per 1 e mezzo. Insomma, ci sono tanti temi, ma il fatto è che questa panchina nazionale non sembra così ambita. Sì, però non è un problema solo italiano, cioè non è che Mourinho sia sulla panchina del Portogallo, Guardiola sulla panchina della Spagna, Ancelotti faccia la gara per allenare una grande nazionale. Cioè le nazionali sono una soluzione rispetto ai grandissimi club, non voglio dire di Serie B, ma lo dico, dai, tanto ci siamo capiti. È ovvio che rispetto a altrimenti la gara di Guardiola, di Mourinho, di Ancelotti, di Capello dovrebbe essere quella. È ovvio che se l'obiettivo è andare a prendere uno di questi è difficile. Sì. Ci sta pure che Capello, che adesso ha allenato delle nazionali alleato delle nazionali negli ultimi anni, possa avere voglia di fare qualcosa di diverso. Quindi secondo me il punto è proprio quello, non c'è niente di diverso dal passato. Noi abbiamo vinto un mondiale con Berzot, che era un uomo della federazione, sì, però anche uno con Lippi, che era uno degli allenatori più, sì, esatto, più gettonati, più popolari. Il mondiale in casa con Vicini, che era, sì, l'ex allenatore dell'Under 21, bravissimo, gli vogliamo tutti bene, ma chiaramente non era in quel momento Hiddink. La Germania ha fatto con Lev per tanti anni, quindi insomma, a me sembra sinceramente che sia un finto problema. Cioè, ma sì, cioè ci sarà, troveremo l'allenatore nazionale. Vabbè, uno qualsiasi lo troviamo. Uno lo troviamo. Prendi, voglio dirti, non mi sento se arriverà Donadoni o arriverà un altro allenatore di questi emergenti. Ti butto la suggestione di Biasi, adesso non so come si è messo contrattualmente, però col lavoro che ha fatto con l'Albania ha dimostrato di essere, di aver fatto un amico, un grande selezionatore. Sì, non ci dovesse rinnovo automatico con l'Albania dopo che si è qualificato per l'europeo. No, ma tutto questo. Però, sì, no, ma questo è chiaro. Questo è chiaro. Trovi anche tu, Giovanni, una soluzione di Serie B la panchina nazionale? Ma sono stato da Pardo. In questo momento lo è. È decisa. In questo momento lo è. Tanti nomi. A me stupisce, ad esempio, Capello. È vero che può aspirare a fare qualsiasi altra cosa. Il problema è che è un po' di mesi che Capello dice che è pronto a fare qualsiasi altra cosa, evidentemente non ha la fila nemmeno lui fuori dalla porta di casa. E quindi mi chiedo perché, ad esempio, sulla nazionale debba essere sprezzante, duro, categorico nella chiusura, così come è stato ancora ieri quando stava andando in macchina a Udine, ospite della federazione per Italia-Spagna. No, ma è curioso, cioè, che Tavecchi abbia detto: devo vedere Capello insieme ad altri allenatori. Però le hanno un peso. Però le hanno un peso anche nel momento in cui uno dice: preferisco di no. Ma non è mica, a parte il fatto che Capello è libero di fare quello che vuole fare nella vita. No, cioè, ma visto che stiamo facendo il processo a Conte, che avrebbe mancato di rispetto alla nazionale, perché ha detto in generale, secondo me lo scenario più preoccupante non è Conte che paragona, e ripeto, non parlava della nazionale, ma diciamo paragona la nazionale a un garage. visto che questa è stata la pietra dello scandalo. Lo scenario secondo me più preoccupante è questo, che come dicevamo prima, alla fine in federazione si sono messi in animo in pace, adesso ragioneranno bene su qual è il profilo, però la verità è che anche non richiesti, quelli della prima fascia che poteva essere, si sono ispirati tutti. Ragazzi, ma il calcio di club, Video Kill the Radio Star, che nel nostro caso non è vero perché la radio anzi negli ultimi anni va benissimo, però è un po' lo stesso discorso, cioè il calcio di club, il calcio da un punto di vista di ingaggi, da un punto di vista di importanza, da un punto di vista di presenza nella vita delle persone, ha tra virgolette ucciso il calcio delle nazionali, del quale ci ricordiamo ogni due anni quando ci sono gli europei, i mondiali. Sì. Non c'è, a parte il fatto che io non sono neanche così contrario al doppio incarico, so di essere uno dei pochi a pensarlo in questa maniera, no, perché quello contrario. Io non sono in linea di principio contrario per niente al doppio incarico. Magari meglio se alleni una squadra all'estero, così evitiamo polemiche. Sì, quello, ma poi polemiche. Nostro, sì, sì, sì, ma abbiamo avuto altri esempi, anche per nazionali italiane diverse dal calcio, di doppio incarico, tutto sommato male non ha funzionato. Però voglio dire, Capello dice una cosa, secondo me, onesta, dice che allenare la nazionale non è in cima ai suoi pensieri e non c'è niente di male. Conte dice una cosa onesta, la dice secondo me sbagliando le parole, l'ho detto anche nei giorni scorsi, se io fossi il suo consulente di comunicazione non gli avrei detto di fare quell'esempio, perché quell'esempio lì se lo porterà dietro per mesi, sì. La cosa ce la ricorderemo, il garage, però lui è stato onesto, cioè lui ha detto una cosa in completa onestà, cioè lui pensava, sperava di riuscire col suo carisma di arrivare in nazionale e cambiare i rapporti di forza che esistono tra nazionale e club. Non c'è riuscito, ma era un'impresa impossibile, nessuno, cioè se pensava davvero di poter allenare la nazionale tutti i giorni della settimana aveva chiaramente da subito sbagliato indirizzo. Ciao Pierluigi, sentiamo una cosa finale. Sì. Ci sono 330 giorni all'anno i tifosi italiani pensano ai club. Certo. Negli anni degli europei e dei mondiali per 30 giorni penso alla nazionale. Poi è ovvio che allenare la nazionale italiana sia una cosa bellissima perché rappresenta il paese e quindi è, da un certo punto di vista è la più alta onorificenza che possa, sì, che possa, però appunto è un'onorificenza più che una panchina vera su cui puoi fare l'allenatore. E avevi ragione tu l'altro giorno quando dicevi serve un allenatore più risolto, usando un'espressione che dice un po' tutto. Grazie Pier, ci sentiamo. Ciao. Giacomo Bagnasco al volo, un minuto invece della nazionale italiana, segreto di rugby, invece quelle del rugby sono panchine ambite soprattutto per quelle che fanno Sei Nazioni, svelato il mistero di Pulcinella, Abemus, sì. CT. Più che un segreto di Pulcinella possiamo chiamarlo segreto di Arlecchino, visto che sì, Conor O'Shea, il nuovo allenatore CT della nazionale, viene appunto dalla squadra londinese degli Harlequins. Si sapeva che era lui, è un tecnico di alto livello, porta con sé Mike Catt, ex tre quarti della nazionale inglese, campione del mondo nel 2003, che si occuperà appunto dei tre quarti e dei calciatori, porta con sé anche Stephen Abud, e questo potrebbe essere l'incarico più interessante, perché questo ex direttore tecnico della federazione irlandese curerà la formazione dei giocatori di alto livello giovanile fino all'under 20, sarà responsabile delle accademie e della formazione degli allenatori. Quindi un progetto compiuto. Grazie Giacomo. Due parole, lasciamoli lavorare. Sì, ma che facciano con limiti di tempo, insomma, lasciamoli lavorare, ma anche qui. Ma lavorare significa progredire. Cioè, sì, quello senz'altro. Giovanni, ci troviamo domenica. Domenica 17:18, vorrei meno che poi andiamo a festeggiare anche noi, esatto. Tutti quanti. Sì. Molto bene. Grazie Giorgio De Luca, nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Federico Bini in redazione. Ciao a tutti. Signori, alla prossima.